andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. Gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto. Allora, ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Siete due delinquenti, due grossi delinquenti. Mamma mia, che notizia oggi! Che notizia oggi, Parenzo! Tu ti aspetti naturalmente che uno entri in questa trasmissione e ti parli di questa enorme rottura di coglioni della vicenda Lupi in calza, la TAV, le tangenti o presunte tali, eccetera, eccetera. Io dirò una sola parola su questa roba qua, su tutta questa vicenda che invade i talk show. Io immagino le persone sedute lì che devono sorbirsi ore a sentire in calza Lupi, si deve dimettere oppure no? No, signor Incalza è questo burocrate dei lavori pubblici. Ecco, la cosa più assurda che c'è in Italia, la cosa più incredibile è che ci sia un tizio come questo Ercolino, Ercole Incalza, al di là del fatto che poi sarà anche colpevole. Il nome è significativo, però Ercole si occupa di opere pubbliche. Ah, tu dici scelta apposta, Ercole, signor Ercole. Anche il nome di battesimo Ercole. Vabbè, si comunque occupa questo signore Ercole Incalza è lì fermo da 30 anni, 25, 30, ha attraversato 7 governi. Sì. C'è la burocrazia, l'alta burocrazia italiana, c'è quella virtuosa ovviamente, poi ci saranno pure i ladri, quello saranno i magistrati ad accertarlo. È molto molto più importante della politica, cioè i politici sono passeggeri, transeunti, utilizzo questo termine un po' così sofisticato. Bene. Ma in realtà quelli che comandano sono i burocrati. È Incalza che scrive il programma di governo del nuovo centrodestra, è Incalza che dice a Lupi al Corriere della Sera di quello o di quell'altro. Questi sono più importanti, al di là del fatto della colpevolezza o no. È comunque assurdo, è evidente che questo qua assume un enorme potere, no? Cioè concentra su di sé un potere enorme, perché da 30 anni sta lì, conosce i meandri, conosce tutto e diventa potentissimo. Questa è la vera follia italiana. Comunque, come al solito, il PD si arrovella. Che fare? Il Renzi di una volta, cioè il Renzi rottamatore, avrebbe deciso subito dimissioni. Siccome adesso è al governo, deve fare i conti con gli alleati, con gli equilibri, eccetera, eccetera. Altri li avrebbe fatti dimettere in un secondo. La Cancellieri voleva che si dimettesse, la Idem, eccetera, eccetera. Però c'è qualcuno nel PD che dice che si deve dimettere, per esempio la Prodiana Zampa, che chi se ne frega, però è giusto per dire che qualcuno nel PD sostiene che bisogna che Lupi si faccia da parte. Appartiene alla sua coscienza, sì. Ripeto, non è indagato, io non farebbe bene, io non so, farebbe bene, almeno a darle le sue dimissioni, a mettere le sue La Zampa ha detto farebbe bene, Cini mi deve ancora dare una risposta. Sì, sempre molto stiracchiata questa roba, no? Farebbe bene forse, perché cioè, uno deve dire chiaramente, deve avere il coraggio di dire si deve dimettere, non queste robe qui. Però ragazzi, basta con queste cose, mi hanno veramente rotto le scatole. Dette due cose, poi voi intervenite, dite quello che volete. Sì, possiamo soltanto dire che in Italia gli appalti costano il 40%, le opere pubbliche costano almeno il 40%. È una follia, si trovino i colpevoli e li si mette in galera. Si basta, può dire basta che di... questo è il problema almeno. Vabbè, lo sappiamo, da anni, però, lo sappiamo da anni. Prendano i colpevoli questo. Del fatto che gli appalti aumentano del 40% se ci sono e li mettono in galera, perché tanto si io sa. Io dico, magari regaliamo un Rolex in meno, magari se è stato regalato, facciamo però in modo che gli appalti siano fatti correttamente. Va bene. Sì. Banalità delle 18:40. Sì, va bene, 18:41 bravo. Avanti. No, ma la notizia fondamentale è un'altra. La notizia fondamentale è che Rocco Siffredi lascia forse il porno. Sì, questa è la notizia, non dico ferale, perché poi alla fine, sai, il cinema porno ormai è residuale. Però la notizia, diciamo, che dovrebbe fare il titolo del Corriere della Sera, della Repubblica. Siffredi, basta col porno. Ne hanno parlato anche oggi in riunione, me l'hanno detto nel CDA con Squinzi di questo. Sì, di questo ne hanno parlato. Hanno aperto esattamente con questo. Comunque, Siffredi, senti, se no perdo mia moglie, però pure Siffredi, deciditi pure tu, caro amico Rocco. Una volta hai detto, beh, poi lo facciamo sentire. Cioè, è già due o tre volte che dici basta col porno, altrimenti perdo mia moglie. Ma sono problemi, eh? Anzi, al contrario, lui aveva detto che era tornato a fare i film porno apposta, perché altrimenti scopava fuori. Dipendenza sessuale, solo sesso, non mi sono mai drogato in vita mia, non bevo, non faccio niente, ce n'ho uno di vizio, però è correlato, l'ho capito qui, è correlato alla mia persona, non puoi essere Rocco Siffredi e pensare solo a una donna facendo i film, quindi questo è il secondo step, non posso più continuare a fare i film, se no perdo mia moglie, lo so. Ma tra l'altro la moglie dice, bah, veramente io non so vedere Rocco... Non so vedere Rocco in una situazione diversa. Comunque, questa è la notizia principale. Ragazzi, Siffredi, basta film porno. Questa è... Siamo al clou delle... Una volta Donone aveva detto che morirà sul set. Sentite. E io penso che probabilmente invece mi succederà quello che non voleva. Cioè? È quello di invece lasciarci le penne sul corpo di una donna. Ah, cosa tu che pensi che morirai sul set? Secondo me sì. Cioè, di infarto, dici tu, o di che cosa? Qualcosa di strano, me lo sento da sempre. Vabbè, Parenzo, io ti ho invitato una persona adesso che è l'esatto opposto, almeno in apparenza, di Rocco Siffredi, uno che ha 11 figli, più del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, più di Del Rio, ed è uno, ed è uno che tu non ami, anzi, vorrei che per la prima volta gli stringessi la mano virtualmente, perché questa cosa cosa qui, che tu non stringi la mano... Passare da Siffredi a Fiore, però c'è una analogia, diciamo, ma perché prima ascolta invece di dire cazzate, no? No, qui a prescindere proprio. Lo sai, c'è un legame. Aprire con queste vicende cosiddette del cavolo, no? Del signor Siffredi. Sì. E passare poi sempre a Fiore. Mi piace questo fil rouge. Roberto Fiore, che è il segretario di Forza Nuova. Buonasera. Allora io ogni volta tento di fare questo portare Parenzo ad allungare virtualmente la mano per stringerla, ma non ci riesco. Ma manco da morto, guarda. Che vuol dire manco sottoterra? Sottoterra è difficile, poi allungare la mano. Ma neanche se morissi. Allora, sei tu il fascista, non Fiore, ma sei tu il fascista. Paese. È tutta una sceneggiata, Parenzo sa benissimo che non è così. Comunque andiamo. Cioè che non è così, non ti vuole stringere la mano, Roberto? Per strada mica stringo la mano. Vabbè, non è così, nel senso. Ci siamo incontrati anche l'altra volta alla stazione. Infatti non ci siamo stretti la mano, perché io, neofascisti, non stringo la mano. Ma sei tu che mi hai salutato, non sono stato io che ti ho visto. È passato di fianco, l'ho visto, ho alzato lo sguardo, tu avresti dovuto abbassarlo, io l'ho alzato. Ma perché? Ma che male ti ha fatto Fiore? Non capisco. Ha le sue idee. È quel che rappresenta, è le idee che rappresenta. Ma tutti quelli che si dicono di essere fascisti o che sono. Ma no, adesso è neofascista, non fascista, ma per quel che fa, hanno fatto una campagna nelle scuole con i manifesti contro l'omosessualità, hanno istigato sostanzialmente al suicidio dei ragazzi. Ma ne parleremo. Come al suicidio? Fallo parlare. Io credo che loro istighino al suicidio. Di poi chi? Ti spiego al suicidio di chi? Allora, Forza Nuova ha fatto una campagna nelle scuole anti-gay con manifesti. Ma che c'entra che il suicidio? Invito... Se uno si suicida, non è che si suicida per Fiore. Attribuisci troppa importanza. Istigazione al suicidio. Andrebbe accusato di istigazione al suicidio. Ma sei malato. Fiore. Ma sei Fiore e i suoi ristabiliamo accoliti. La verità. Ristabiliamo la verità. Quella campagna era contro le politiche gender. Io penso che voi sappiate perfettamente che c'è un programma prima dell'OMS e poi dell'UNAR per fare che? Di diffondere nelle scuole un programma per l'educazione al gender. Ma adesso diffondere nelle scuole non credo, cioè no, cioè per dire che sono tutti uguali, maschi, femmine, che omosessuali. C'è stato uno scandalo a Venezia 8 mesi fa con le famose fiabe gay e c'è stato uno la settimana scorsa con il gioco del rispetto a Trieste. Ma tu non ho capito, Roberto, tu dici che per esempio i gay sono come, per la società, i gay sono come l'ISIS? No, io non ho detto questo. Beh, più o meno dici ovviamente questo. Ovviamente sono due cose molto distinte. Io ho detto che ci sono due strategie che stanno attaccando alla società, e una è, è quella legata all'ISIS, mi sembra piuttosto evidente. Vabbè, poi, la società cristiana, ma c'è anche una strategia evidente dai settori potremmo definire liberal mondiali per far penetrare nelle scuole delle teorie di un tipo di educazione che poi va a distruggere l'identità sessuale delle persone. Cioè, non ho capito. Dunque, normale, secondo te i gay sono, cioè, il mondo gay, la cultura gay, eccetera, è pericolosa quanto l'ISIS, cioè su due piani diversi. Sicuramente per quanto l'ISIS, forse è un'esagerazione, che l'ISIS tra poco, se qualcuno non si dà una mossa, inizierà a minacciare. Vabbè, sono pericolose tutte e due. Sono pericolose tutte e due. Certo, sono pericolose in modo molto diverso tutte e due. Scusa, certo. Ma tu hai 11 figli, puoi escludere che uno di questi sia frocio? Ma come faccio? A parte sono tutti abbastanza piccolini, quelli grandi sicuramente. A parte, come si fa a fare 11 figli? Come si fa? Un padre può educare i figli al meglio, può cercare di fare il meglio secondo le sue. Ma il meglio che significa? Perché secondo i suoi valori non so quanto. Ma perché il gay è peggio? Non ho capito, gay è uguale peggio? No, certo, io non vorrei assolutamente un figlio gay, ci mancherebbe. Perché altro. Non lo vorresti gay? Scusa. Perché secondo me poi condurrebbe avrebbe una vita triste, io questo non lo potrei accettare, andrebbe contro quello che è stata la tradizione della tua famiglia. Ma se ti dice contro le convinzioni della tua famiglia, che cosa? No, anche la tradizione della sua famiglia, della sua cioè se ti dice sono gay, che fai? Lo porti da un medico? No, io cerco assolutamente di cercare cerco di cambiargli le idee, cerco di educarlo. Che gli porti le donne, gli porti le donne di Ricci, non lo legano. Alla fine fare una famiglia ad avere dei figli, questo io cercherei di fare. Da un medico no, non è una malattia. Ma oddio, ci sarebbe anche quello da vedere, magari c'è stato qualche fatto psicologico che va visto, però sicuramente è una cosa che prenderei molto seriamente. Ma lo butti fuori da casa o no? È meglio che rimanga all'interno dell'educazione familiare, non vada, che non venga trattato dai professionisti, da medici o psicologi. Ma lo butti fuori da casa, no? No. Non lo butto e finché non trovo un comportamento. Ma perché dobbiamo parlare di questo? No, perché questo qua è significativo, perché fa parte della politica. Io non ho capito. Se tu trovi tuo figlio, se tuo figlio maschio, scusa un attimo, tuo figlio maschio, Roberto, un attimo, tuo figlio maschio si porta a casa un fidanzato. Il signor Roberto Fiore, segretario di forza. Non entra, ovviamente non entra. Ma come non entra con fidanzato? Certo che non entra con fidanzato un figlio maschio. Guarda, ci va chiedendo se faccio entrare un figlio con un fidanzato. E certo, fai entrare a casa tuo figlio che si è innamorato di un maschio. Si è innamorato. Cioè, assolutamente no, no, non lo farei. Allora ragazzi, abbiamo in collegamento, caro Parenzo, il nipotino di Goebbels. Ma che allora, c'entra Goebbels? Come sta mamma il nipotino mia, di Goebbels? Mamma mia. Certo, gli omosessuali nel periodo nazista, caro Fiore, gli auguro esattamente questo, non erano trattati bene, di subire dirlo. Per un giorno, a Fiore, alla sua combriccola del Blascoli, alla sua combriccola nera, di subire per un giorno intero, non una settimana, per un giorno quello che hanno subito gli ebrei, i rom, ma che gli omosessuali, questo? I detenuti politici nei campi di concentramento. Vabbè, gli auguro per un giorno, virtualmente, di subire quello al nipotino di Goebbels. Io capisco che sia limitata la possibilità di Parenzo di rispondere a determinati concetti, ma il portare i campi di concentramento con me, che ci azzecca? Cioè, per che le c'entra? Idee che rappresenta, le auguro di subire per le discriminazioni che mette in atto. Le sue idee non penso che voglia portare i gay in un campo di concentramento, però le discriminazioni dell'oggi 2.0. Io non accetto il fatto che siano riconosciute giuridicamente le coppie gay. No, ma lei fa di peggio. Questa la propaganda anti-omosessuali sua istiga al suicidio. C'è una tradizione giuridica inoppugnabile, lo diceva Seneca Calderone. Fiore, però vorrei farti. Ci sono ragazzi che si sono uccisi nelle scuole, Fiore, perché derisi per essere omosessuali. C'entra, lei è responsabile anche di quei morti. Non dire cazzate, di quei manifesti. Parenzo, non dire cazzate. Magari... Ma tu li hai visti i manifesti di Fiore, di Guarda, Forza io Nuova? Sono... Li devi vedere, perché ma li hai visti i manifesti? No, lo dico a Cruciani se li ha visti quei manifesti di Forza Nuova. I bambini maschi si debbano mettere i vestiti. Va bene, d'accordo. sono bambini che si sono suicidati dalla vergogna. Va bene, allora fermi tutti. Allora, io ho visto quei manifesti spesso di Forza Nuova, non mi piacciono, ma non è questo il punto. Non puoi dire la cazzata enorme che quello che dice Fiore, istiga al suicidio, perché è una stronzata. Fale quella propaganda fuori dalle scuole dove accadono episodi di bullismo contro i ragazzi omosessuali, istiga alla discriminazione, anche al suicidio, quello che lui fa. Vabbè, la propaganda anti-gay. Fiore, non sono discriminati gay in Italia, oppure c'è una lobby gay? Invece sono privilegiati, secondo te? No, sono assolutamente privilegiati dal punto di vista dei media, della cultura. Se sei gay c'hai un percorso privilegiato. Cioè esiste una lobby gay? Come quello che hanno fatto Dolce e Gabbana, vieni massacrato e inizia addirittura l'embargo economico, inizia il boicottaggio. Ma ci rendiamo conto? Beh, aspetta, cosa? Tutti hanno parlato di Jesus Charles, tutti hanno detto che si può dire tutto, si può fare blasfemia, eccetera, eccetera. Poi uno dice la cosa normalissima e viene massacrato. Ma beh, ha dato. No, ma Dolce, credo. Gabbana ha dato del fascista Elton John, attenzione. Ma l'altro discorso. No, no, per dire, ha dato del fascista Elton John, cioè del non so se intendo, cioè tu che comunque dici di essere fascista, perché penso che tu dici di essere fascista o neofascista, comunque io mi riconosco in molte cose del fascismo. Ti riconosci in molte cose del fascismo. Parenzo, hai un brivido, immagino. Dice certo, mi viene da vomitare, ma ho preso un farmaco prima dell'intervista, quindi sono trattenuto. Un farmaco addirittura, cioè ti sei dovuto sedare, un sedativo. Un farmaco per non vomitare, ma perché ho la nausea quando sento discriminazioni. Ma tu hai letto i giornali in questi giorni? Hai visto di quel ragazzo che è stato picchiato perché gay? Hai visto? Ma quello sono dei criminali. Pochi giorni fa c'è una propaganda contro gli omosessuali. Aspetta. Il dato politico è che c'è stato un Barilla che è venuto da voi e che ha fatto delle dichiarazioni ed è stato massacrato. Ma questo non c'è dubbio. C'è stato un tal Grillini che ha detto da domani Barilla non vende più un pacco di pasta agli Stati Uniti. Stessa cosa di Elton John contro i Dolce e Gabbana, ma mi sembra una cosa normale. No, a me infatti una dittatura. C'è la dittatura gay in Italia. Ma dove sta? Nel momento in cui tu gli vai contro ti sfondano economicamente, ti pare poco. Cioè, lui che parla di dittatura è come un vampiro presidente dell'Avis, guarda. Uguale. Ma sono molti Fiore che parla di dittature dittatura. In cui i dittatori dicono sono un dittatore. C'era ma i gay, Roma, i gay possono. Dicono, ma questa è una dittatura nascosta, gravissima, che poi non lo cogliamo. Scusami, Roberto, scusa. Scusami un attimo, ma secondo te i gay alla fine distruggono la società? No, non sono è la società che si autodistrugge. No, ma i gay. Il modello gay è un modello che si è portato come in questo momento. Ma non possono diventare tutti gay, scusami. Nei percorsi educativi dei bambini distrugge la società. India, tutti i giorni. Ma perché? C'è il pericolo. Mica c'è il pericolo che diventano tutti gay, amico mio. Non no, è possibile no, questo. Però no, attenzione, voi sapete bene perché avete studiato la storia che quando una società decade, quando le civiltà decadono, uno dei segnali è quello. Il segnale della decadenza è uno dei segnali della decadenza è i gay dappertutto. Si diffondano. Vabbè, fermo lì. Augusto lo dice del suo discorso. Vabbè, fermo lì. Voi siete Radio Gay, non siete Radio 24. Questo è un buon titolo. Questo è Radio Gay. Ormai è tutto degradato. Ma vogliamo ricordare, caro Parenzo, gli effetti della pillola anticonati di vomito. Sì, ma c'è ancora l'ospite? Ti do ancora un paio di minuti di Fiore fra poco, Perché ho preso. Allora devo prendere un'altra pillola. Prendi un'altra pillola contro il fascista. Perché stanno per finire gli effetti, quindi mi tornano i conati di vomito. Mamma mia, come sei, guarda, sei veramente incredibile. Sei diventato intollerante. Io gli intolleranti li lascio parlare. Io sono intollerante con gli intolleranti. Bravo. Esatto. Sì, ma ti dimostri peggio di loro in alcuni casi. Non mi interessa niente. Ma d'accordo, ma peggio di loro, va bene, d'accordo. Mi interessa, va bene. Allora, posso dire una cosa, signor Lupi, che ho avuto il piacere di conoscere soprattutto in occasione di alcune gare podistiche. Ah, già è vero che siete maratoneti entrambi. Ho una naturale predisposizione verso chi corre, lo ritengo quasi geneticamente non disposto al furto. Cioè, chi corre le maratone, le gare, eccetera, ha un senso del sacrificio enorme. E secondo me tendenzialmente non ruba. So che è una cazzata pazzesca, però no. Escludo che no. Così a pelle, escludo che Lupi sia un ladro. Sia un ladro, però, sulla questione del figlio, no? Sulla questione del figlio. Allora, io dico una cosa, poi no, ovviamente se ha rubato, se ha fatto aumentare i costi delle opere pubbliche in maniera esorbitante, ed è responsabile anche lui, per carità. Il problema è un altro. Ora, il figlio è un giovane, tra l'altro grande ascoltatore della Zanzara, il figlio di Lupi è un ragazzo che adesso sta in America dal 1 marzo, prima laureato con 110 lode. Uno laureato in ingegneria con 110 lode, figlio di Lupi, che è un politico affermato in Italia, al governo da tanti anni, prima con Berlusconi, poi adesso anche con Renzi, Alfano, eccetera. Amico mio, cerca di farlo lavorare lontano dalle aziende, dai personaggi con cui hai a che fare te ogni giorno in qualità di ministro. Questo. Almeno questo, poi lascia perdere, ha accettato un Rolex, lo sapevi, non lo sapevi, altri regali. Ma siccome è laureato in ingegneria, è figlio di una persona importante, c'è una cosa che non devi fare: farlo lavorare in aziende, in situazioni vicine a quello che fai, con persone che poi hanno a che fare col tuo ministero. Ti ma dico è fondamentale. Una cosa in più. È fondamentale. Ti dico una cosa in più rispetto a quel che dici. Facciamo un esempio che riguarda noi, no? La figlia di il figlio di Lupi, no? Bussa a qualunque impresa, anche la più scrausa, la più piccola. Dice: come ti chiami, caro? Mi chiamo Luca Lupi, no? Sì. Ah, parente? Sì. Prego, contratto. Cioè, oppure la figlia di parenti. Non è così. No, non è così. Sai perché? Perché perché è la captatio benevolenza di un'azienda, no? Che dice: beh, vabbè, intanto ci prendiamo il figlio di. Cioè, mi faccio dici, vedere non è difficile curriculum. Trovare posto di. No, posto lo faccio di. Su di me. Te lo faccio su di me. Magari mia figlia ha 24 anni, no? Io lavorerò ancora in radio, forse non ci lavorerò più, no? Viene, bussa, dice: salve, vai, non è? Dice: io mi chiamo. Ma noi la mandiamo a fare in culo qua. No, ma non noi. Ti ho fatto l'esempio del figlio di un figlio del ministro, ma che è verosimile, non comunque, c'è corruzione ma io non so se c'è la corruzione, non mi interessa, questo lo accerteranno i giudici. Però c'è la naturale predisposizione ad assumerlo, mettiamola figlio, così. Ma non lo so, questo può essere, il figlio di Lupi deve rimanere fuori da ogni contatto con aziende che hanno a che fare col padre, al di là dei reati, questa è una questione fondamentale. Esatto, sì, esatto. Cioè tutto il resto, sono tutte cazzate, cioè possono diventare importanti quando ci saranno le sentenze, ma se il figlio di Lupi ha a che fare con persone che poi lavorano con il padre, prima o poi ti si inchiappettano. Eccolo là. Prendi un attimo la pillola perché mi pare che. Adesso torniamo a parlare di inchiappettamenti tra poco dopo il video del TG3. And now the headlines news channel 3. E adesso i titoli del TG3. Inchiesta appalti, una rete che controllava tutte le grandi opere. Domani incalza interrogato. Gli interessi di Perotti dalla Salerno-Reggio alla metro di Roma. Scontro Renzi magistrati, l'ANM, la politica bastone giudice e carezza ai corrotti, replica frasi false e tristi, faremo pulizia, no alla prescrizione per la corruzione. Il ministro Lupi coinvolto ma non indagato resiste, non penso a lasciare, mozione di sfiducia di Selle 5 Stelle, Del Rio, nessun obbligo ma sta valutando. Agli atti dell'inchiesta Lupi le lettere di Berlusconi alle Olgettine, vi voglio bene ma devo sospendervi i pagamenti, potrebbero causarmi nuovi guai giudiziari. Tensione nella CGIL sul progetto di coalizione sociale della FIOM. Camusso, basta ambiguità, il sindacato resti fuori dalla politica. Landini, non faccio un partito. Israeliani alle urne per eleggere la Knesset. Sfida decisiva tra Netanyahu, che dice mai una nazione palestinese, e il laburista Herzog, favorevole ai due stati. Allora, ragazzi, ieri, anzi l'altro giorno, una deputata di Forza Italia, la Biancofiore, che cosa ha detto? Ha detto che almeno una volta tutti gli uomini sono andati a puttane in vita loro. Questo è. E ha aggiunto forse, anzi ha detto almeno per l'iniziazione, ha usato questo termine, l'iniziazione. La notizia sta facendo un po' rumore perché è evidente che quando uno dice, lei voleva difendere Berlusconi, no? Basta ipocrisia, almeno una volta, tra l'altro indirettamente ha detto che Berlusconi è andato a prostitute, tra l'altro. Cioè, sentiamo. Cioè, non c'è un uomo in Italia, ritengo, che non sia, come dire, non si sia accompagnato con signorine, almeno per l'iniziazione, come andava di moda. Beh, adesso addirittura dice, tutti sono andati a Mignotta, lei dice. Su, per favore, perché prolificano in tutta Italia e in tutto il mondo? E che con chi vanno? Con noi o vanno con gli uomini? Su. E poi c'è anche Ferrara sull'aborto, Ferrara sull'aborto di ieri da noi, beh, eccezionale, eh. Pippe, invece dell'aborto, se proprio non volete usare il preservativo, Pippe. Perché il Papa... il palloncino non rompono le palle ai bambini non nati che... Ho capito, ma se il palloncino non lo vogliono mettere, che fanno? Devono per forza fare questo bambino? Pippe. Pippe, molte pippe. Ma se uno ama e fa un bambino, poi il bambino deve nascere. Ma ho capito, ma se uno non ama e vuole trombare, l'altro giorno c'è stato Pippe, Pippe. Ma come Pippe? Ma è una cosa. Poi altro. Ma non è il califfo, questo qua è pornografia. Beh, qui siamo praticamente a livello, cioè Fiore, anche lei non arriva a questo livello. Aspetta, eh? aspetta un attimo. Fare la domanda. Anche lei non arriva, cioè lei che è contro. Dai, basta, che stai facendo? Sto prendendo la pillola per lo I gargarismi. Anche Fiore, che è il segretario di Forza Nuova, che è contro l'aborto, immagino, no? Certo. È contro l'aborto, certo. Avendo fatto 11 figli ed essendo di Forza Nuova, eccetera, eccetera, immagino che lei abolirebbe l'aborto domani in Italia, certo, o sbaglio. Certo, cioè, anche per le donne che vengono stuprate o no? Il problema è questo, anche lì è un fatto giuridico, cioè, quell'essere è un essere separato dalla madre, è un essere differente, unico, per cui qualunque sia l'origine dell'atto ha diritto a vivere. Ho capito, è indipendente ma, dal ho fatto capito, ma se uno viene stuprato va castigato. Vabbè, ma quello d'accordo, ma... quello se va a San Diri, se lei non dicesse questo verrebbe arrestato domani mattina, le mando i carabinieri subito. Torniamo al mandagli per sicurezza, così non sbagliare. Mandagli un attimo così. Già fatto, già dato, Fiore lo può dire, già dato quello, già dato nel passato. Però voglio dire una cosa, la questione è molto ma non si sbaglia mai, mandaglieli a Fiore. Allora, però lei non può dire che anche quelle stuprate non devono abortire, perché è una follia, su. Perché no, attenzione, bisogna seguire la logica, bisogna seguire, voi avete tutto studiato, avete fatto il classico, sapete perfettamente che quando un principio generale è corretto ne discende che tutte le situazioni che derivano sono corrette. Quello è un essere unico e ripetibile. Ho capito, ma quella è stata stuprata ed ha diritto ad abortire se non lo vuole. Ripeto, ma lo Stato lì si deve fare avanti, deve fare carico del figlio, ma la gravidanza c'entra lo Stato. Ma la gravidanza la porta avanti. Come anche nel caso che sia malato il bambino, deve nascere. Pure i bambini malati devono nascere, tutti devono nascere. Certo. Scusi un attimo, ma i Rom che ne facciamo invece? Ma che città, anche loro devono nascere? No, ma è una cosa diversa, i Rom, che va fatto dei Rom? Tutti i Rom che non sono italiani fuori, fuori da dove vengono, in Bosnia, in Romania, eccetera. E quelli italiani? Quelli italiani bisogna fare, quelli italiani ce l'abbiamo a Latina, a Pescara, vabbè, quelli da italiani 60, che fanno? 70 anni ci stanno, vanno controllati perché... Cioè vanno schedati a delinquere. Schedati, lei dice, schedati. No, io faccio un altro discorso. Quando commettono reati assieme, c'è il reato di associazione a delinquere, che contro di loro non viene mai combinato. Ma come viene associazione mai a delinquere? Dipende associazione a delinquere. Alcuni saranno pure quelli che fanno l'associazione. Cioè i Rom, secondo lei, sono un'associazione a delinquere? Allora, quando si trovano le refurtive nei campi Rom, quando si vede che 10 persone sono coinvolti, quello portava la macchina, quello andava, cioè quella associazione a delinquere, tant'è che ci sono dei giudici piemontesi, se non erro, che hanno iniziato a darla, è giusto? Darla. È giusto darla in alcuni casi quando i giudici ritengono opportuno darla. Ma secondo lei hanno la stazione Termini di Roma? Hanno il DNA nel sangue, hanno la cosa nel furto. No, è un problema di educazione, questi sono educati. A rubare, noi a rubare. Le donne e i figli li proteggiamo, noi loro le donne e i figli li mandano in mezzo alla strada a lucrare per le famiglie. Ma se fosse per lei li farebbe fuori sti Roma, dai, diciamo la verità. No, no, non va bene farli fuori, uno non fa fuori intere etnie, però fa in modo che le etnie non disturbino il vivere civile, come sta avvenendo a Roma in tutte le città. Senta, d'Italia. Io voglio capire una cosa: secondo lei si può guarire dall'omosessualità? Certo, una società deve indirizzare i propri cittadini verso un vivere sano. Poi vivere nel sano. Momento in cui ci sono perché non capito perché l'omosessualità è due persone è che si inchiappettano, due persone che si inchiappettano, che sono. Non entriamo anche nel discorso su come sono nate certe malattie, vedi l'AIDS, qui ci sono i trattati scientifici non pugnati. Cioè, non ho capito, l'AIDS è nato grazie all'omosessualità? L'AIDS si è sviluppato moltissimo nella comunità omosessuale, che stiamo dicendo qualcosa di strano. Ma non ho capito, io voglio capire una cosa. Determinate pratiche hanno favorito l'AIDS. Cioè, secondo lei gli omosessuali, gli uomini medici che hanno trattato queste malattie, è un dato noto. No, ma ho capito, cioè, ma quale malattia dire? Senza i gay staremmo meglio nel mondo, questo che voglio chiederle. Ma i gay ci sono sempre stati. Il problema è di non fare di una realtà estremamente minoritaria un qualche cosa di preponderante, maggioritario, enorme a queste lobby che sono oramai diventate formidabili, che vincono su tutto. Questo bisogna fare. Uno Stato deve difendere se stesso e deve difendere la propria... Una nazione non va avanti se si dà grande spazio a una lobby che intrinsecamente non produce quello sì, li potrebbe adottare, ma lì andiamo in un mondo errore. Non possiamo forzare la natura e fare eterno ogni 5 minuti. Poi si sfasciano le società. Quando si parla di decadenza dei popoli, sì, ma già l'abbiamo detto. Già l'abbiamo detto. Decadenza dei popoli. Grazie, Fiora. Arrivederci. Grazie, un cazzo. Ma arrivederci. Pippe, molte pippe. E comportatevi bene. Mai. Allora, caro Parenzo, ti faccio e comportatevi bene. E lo diciamo in 1 minuto e 44 secondi, quando abbiamo occupato questa volta Radio 24 e le sue frequenze, per ricordare che il signor Gilletti. Ancora, è finita sta storia. Negli anni 60 saremmo entrati alla statale con delle piccole armi in pugno. Ma no, ma bastoni, non è bello. Mazze o qualcosa di simile. E avevamo scardinato le aule buttando fuori dalla finestra i banchi. Ma non è bello. Scappavate come conigli. Ma non erano fascisti. Scappavano come conigli. Ma non erano formidabili quegli anni, era una schifezza tutto diciamo questo. Lo diciamo in 1 minuto e 44 secondi. Basta. Occupiamo l'ala 4. Chiudete questo pacapanna, dai. Sì, politica. Va bene, sfumate capanna, sfumate. Allora, adesso mi hai fatto perdere il filo, cazzo. Cioè, è possibile? Allora, in Parlamento, mentre noi parliamo, è andato via qui, quello lì. Sì, è andato via il fascista. Mentre noi siamo qui alla radio che parliamo, cioè, in Parlamento si discute ancora di divorzio breve. Cioè, uno dovrebbe a un certo punto, constatata l'impossibilità di campare insieme, due persone vanno da un tizio che sia un avvocato, che sia un giudice, non me ne frega una mazza, al comune, eccetera, eccetera. Dicono: guarda, non siamo più in grado di stare insieme. Firmano, sì. Arrivederci, grazie. Sì. Qui la mano e tu. Poi questa cazzata che dice non si può fare il divorzio breve se ci sono i figli piccoli, ma è esattamente il contrario. Cioè, non hanno capito che se i figli sono grandi se ne sbattono i coglioni, dunque il divorzio breve o lungo è uguale. Sono definiti gli assegni. No, ma sì, vabbè, lascia perdere questo, che è chiaramente. Esatto. Ma i bambini piccoli è meglio separarsi quando i bambini sono piccoli. Cioè, questa cosa no, però il divorzio non può essere breve finché i figli non sono maggiorenni. Questa è una puttanata, un'altra cosa assurda. Vabbè, comunque, mentre noi discutiamo qui in Parlamento si parla di divorzio breve. Senti cosa dice un signore di Forza Italia che si chiama, non so se sia quello di Forza Italia, lì è successo un bordello in quel partito, che si chiama Caliendo. Ti giuro, Caliendo di Forza Italia. E la frase che sentirete in sottofondo è quella del nostro amico Danna. Sentite, perché è eccezionale. Io attribuisco molta importanza al matrimonio. Badate, il codice civile ancora oggi dice: il matrimonio si scioglie con la morte. E nei casi previsti dalla legge, con la morte, e nei casi previsti dalla legge. Cioè, tu capisci che ribadendo quello che c'è scritto mucho sul codice... Mucho caliendo. Cosa pazzesca. Mucho caliendo. Vabbè, qualcuno se la piglia con Salvini perché su Twitter scrive: oggi funerali di David, ucciso a Terni da richiedente asilo. Un pensiero a lui, vergogna per politici complici di questo omicidio, dice Salvini. Molti dicono sciacallo, eccetera, eccetera. Sì. Meno tu anche lo dici, no? Senza ombra di dubbio. No, io non ho capito. Un politico, se non si occupa... Lasciamo perdere di Salvini. Cronaca nera. No, un politico... Che di non cogne? Si, no, del modo in cui vengono dati. Di cogne? No, aspetta, del modo in cui in Italia vengono dati i permessi di soggiorno, come vengono cambiati, il fatto che se si può fare o no ricorso. Ma di che minchia si deve occupare? Cioè, ma questa è una cosa incredibile. Un no, ma è questo il punto fondamentale. Lascia perdere quando lui dice i politici complici, è un'altra cosa. Ma sarà normale. Cioè. Ricapitoliamo quello che è successo, no, perché sembra a tutti normale ed è stato ignorato dai grandi mezzi di comunicazione. È successo che un tizio è venuto in Italia dal Marocco, da non so dove, è venuto qui da clandestino, ha chiesto il permesso di soggiorno, gli è stato rifiutato, ha fatto ricorso, è rimasto qui, ha fatto dei furti, è stato catturato, preso, portato in galera, è uscito è andato via, anzi è stato portato via dall'Italia, è rientrato con un barcone, ha fatto di nuovo richiesta di asilo politico, gli è stata respinta, ha fatto ricorso. In questo periodo di ricorso ha sgozzato uno, ubriaco, forse drogato, ha sgozzato uno con una bottiglia. Ora, di che parliamo? Uno si potrà incazzare per il fatto che in Italia è consentito fare ricorso pure anche su una richiesta di asilo? Cioè, se ti dicono di no, non hai il diritto di stare in Italia, te ne puoi andare a fare in culo nel tuo paese o no? Detta proprio così. Ma sì, è così. Se ti dicono no, devi non puoi cambiare la normativa sul diritto d'asilo. Ma no, sicuro. Ma io divento pazzo, ma per cosa questa cosa c'entra? Beh, ti sei messo la felpa anche tu? Ma non c'entra niente, divento pazzo. Ovunque pazzo, vai, metti una felpa nel posto dove vai. Fammi sentire Fabio dalla provincia di Bologna. Dai, Fabio, provincia di Bologna. Oh, Fabio, dimmi. Fabio. Sì, veramente ieri stavo a Bologna, ora stavo a Milano, vabbè, ma io vorrei sentire una cosa. Quando la chiudi questa trasmissione? Mai, allora, mai, metti l'anima in pace. Alle 20:50. Metti l'anima in pace, però non si può sentire più, dai. E allora perché cazzo chiami, scusa? Tu ieri hai cominciato alle 36:37, sì. Finisci a meno 5, 7 meno 5. Hai ragione, addirittura su questo cominci hai ragione. A 19, ma cominci hai a 19. No, scusa, cominci a 19. Ti stavo attaccando, ma su questo hai ragione. Su cominci, questo hai ragione. No, io per questo ho telefonato. Tu cominci a 19 e finisci, fai 3-4 minuti a 25, 26 e finisci l'altra volta, ricominci a 36 e poi rifare un'altra volta la pubblicità, poi all'8:05 un'altra volta, all'8 riprendi, cioè. all'8:10 un'altra pubblicità, all'8:20 il traffico, cioè ti rendi conto di quello che stai facendo? Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico, pubblicità. Io penso che te sogno, perché di continuo. Sì, li sogno perché li vorrei prendere a picconate, è diversa la cosa. Caro Fabio, ti sono molto vicino, anzi. Solo questo. Il problema, tu... amico mio, aspetta, piccola sì. Parentesi, tutte queste cose sì. Non le decide il sottoscritto. Fosse sì, per me, lo so. Tutto questo non esisterebbe. No, poi capisci, dopo la no? Tranne la pubblicità. Tutto questo sì. Non esisterebbe. Non è... No, dopo e c'è la finale. Dopo c'è la finale che dici, vabbè, sono andato a fare in culo tutti quanti. Cioè, questo è il massimo. Questo, vabbè, questo che c'entra, dai. Questo è un modo di dire affettuoso. Poi questa è proprio una cazzata. Parenzo, tu veramente dovresti prendere le pasticche tutti i giorni, perché ce n'hai uno sì. Lì vicino, non è che... Sì, sì, non per sopportare i medici. No, ma sì. Infatti adesso non dico la marca. Ma vabbè, comunque, va grazie, ciao Fabio, ciao. Anna Maria. È un'altra cosa. Dimmi, ancora, che devi fare, dai. No, io devo fare. Ma che stai col camion? Che stai col camion dietro? Sì. T'ho pizzicato che sei un camionista, eh? Ho indovinato così al volo. Ti ho detto ieri stavo io alla mostra a Milano. E beh, allora? No, dico quella cosa della prostituzione, gente, perché non si fa i cazzi suoi, non ho capito. Cioè, in che senso, scusa amico, spiegami. No, è nel senso che ognuno ci vuole andare, ci va, che non ci va, e non è che rompere i coglioni, tanto c'è sempre stata, adesso questa si alza la mattina e dice, la deve levare, che deve levare, come fa a levare? Ma chi ha detto che bisogna levare la prostituzione, scusa professore? Vabbè, voce pubblica, vabbè. Ma non è la voce pubblica, nessuno, alcuni vogliono multare, come Parenzo, addirittura i clienti, altri. I clienti, non i clienti, ho detto i clienti. Ah, sì, a me mi a me che cazzo me ne frega, se mi multa a casa sto solo io, non leggo io il verbale, ci faccio due risate. Perché tu vai puntualmente a Mignotte, Fabio? Sì. Sì, sempre, fisso. Quante volte? Sto solo, che devo fare? Ho 58 anni, non è come mi metto a fare, cominciare da capo quando era 15 anni, no? No, vabbè, ho capito, potresti anche, come dice Parenzo, no? Affrontare una vita sentimentale. Ma una che vita... sentimentale a 60 anni, che vuoi fare sentimentale? sto dietro a una separazione, la rumena che mi sono andata, che devo fare? No, aspetta, c'è una separazione precedente e una rumena che ti ha rubato i soldi, che ha fatto? No, se n'è andata, no, non mi ha rubato niente. No, una rumena che, con cui eri fidanzata che se n'è andata. No, che stava con me e se n'è andata perché c'è la madre sola, là dove sta a casa con la madre. Vabbè, questa è la rumena, ci avrai affari suoi. T'ha lasciato in sostanza, questo è il punto, t'ha lasciato. Tu dici dopo un matrimonio. Ma si è stufata pure la rumena. Dopo un matrimonio e dopo una relazione con una rumena fallita che è scappata in Romania. Fatti due domande. Tu dici l'unica cosa che posso fare è stare da solo e andare a Mignotte, questo è il punto. Sì, perché la terza l'ammazzo. Ah, la terza la via bastonata, la massa. La prima la faccio andare, la seconda la faccio andare, la terza uno dopo scoppia, capito com'è? Parenzo, vogliamo fare una telefonatina a un maresciallo, qualcosa così per prevenire. Fai la sega il maresciallo a me, che cazzo me ne frega i marescialli? No, a scopo preventivo, per impedire magari un futuro femminicidio, una cosa di questo tipo, una futura, che ne so, magari incroci qualcuno, te incazzi, l'ammazzi una donna perché ti dice di no, che ne sai, Fabio? Pippe pippe. Vabbè, questo è un altro discorso. Appunto, grande consiglio. Psicopatico io. Ma vabbè, ma c'è anche la masturbazione, dice Ferrara, però. Che la fa lui, scusa. Io ho 15 anni, che faccio? Non mi gusta mica. Non te gusta mica la lezione di Ferrara. Quanto spende questo al mese? Quanto spendi mignotta al mese? Che ne so, 120, non lo so. No, 120 al mese? Che? Con chi vai? A 10 euro a botta, vai. Guarda, qua sulla strada 30 euro, non è che ci vuole... Ho capito, allora 30 euro per 4, 120, 4 volte vai. E se no vado 3 volte in appartamento, 5, 10, 15, to, massimo. 10, 15 che? Euro? In appartamento, sì. 50, 100, 150. Ho capito, ma quanto spendi al mese per la tua attività sessuale? Che ne so, che cazzo le conta? Non li conto, non mi interessa, che cazzo me ne frega. Soldi spesi bene non ci guardo io. I soldi buttati me la fastidio, quelli spesi bene va bene. Vabbè, ma questo è il numero uno, ragazzi, di che vogliamo parlare? Ciao Fabio, sei il numero uno, ciao. Ciao, grazie. È meglio evitare il matrimonio che evitare un amante. Allora, ragazzi, aggiornamenti sulla questione Dolce Gabbana, Elton John, questa guerra tra Pensavo sul voto in Israele. No, su, guerra tra froci, incredibile, no? Questa guerra planetaria tra gay e omosessuali. Allora, aveva detto signora Elton John che non avrebbe mai più indossato un capo Dolce Gabbana. È stato pizzicato a Los Angeles con una busta firmata Dolce Gabbana. Attenzione, il portavoce dice sono foto vecchie, poi si è corretto, sono di ieri ma le hanno photoshoppate. Vabbè, insomma. Ma la notizia del giorno, ripeto, è l'addio di ieri annunciato Urbi e Torbi all'Isola dei Famosi di Occhi Freddi al porno. Sarà vero o non sarà vero? Io non ci credo moltissimo, pure la moglie è un po' dubbiosa. Comunque, chi abbiamo? Proviamo a chiamare. Chi possiamo chiamare? Chi chiamiamo? Forse Parenzo? La signora Ilona? Dici un'altra volta, proviamo, vediamo un po' se risponde. Tanto. Vediamo un po', ma ce l'ha con. Ce l'ha con Rocco, vabbè, vediamo. Pronto? E Ilona? Non c'è, chi lo vuole? Sono Cruciani, ciao, come stai? E Parenzo, ciao. C'è Zanzara, come stai? Bene, tu? Ma come non c'è? Insomma, no, siccome io ho troppa gente che si spacciano, ma io sono il produttore del... Insomma, sì. Io non rispondo mai al telefono. Tutti sporcaccioni che chiamano. Ma chi è che ti chiama? Scusa, ma sporcaccioni, Ilona. No. E Cazzoncelli. No, ma la gente che ti chiama, perché ti chiama? Ma che ne so, perché vi piaccio. Vabbè, senti una cosa, io voglio chiederti, ma hai sentito che Rocco Siffredi si ritira dal porno e dice che non vuole più fare film hard? È una cazzata, secondo te? Qui ci sono due possibilità, o non li tira più a Rocco. O non li tira più, oppure? Oppure, la mia domanda, ma quando si è sposato con la signorita ungherese, sì, la moglie, perché allora non era già porno divo, comunque faceva la grande, sì, porno divo. Come mai improvvisamente c'è, come si chiama, un ritiro crisi dalle scene? Crisi di coscienza. Senza, per che cosa? Dice, adesso sull'isola ne approfitto per migliorare, sono sempre impulsivo, sempre diffidente. Dice, non posso più continuare a fare film hard, altrimenti perdo mia moglie, che faccio soffrire in continuazione. Ma fino adesso, come mai non ha perso la moglie? Fino adesso la consente... senti, Rocco fino adesso ha vissuto i suoi soldi vengono dal sesso. Sarebbe anche sciocco che rinuncia a fare sesso, cioè senza i film hard non è nessuno, dici tu. Non penso che possa recitare Shakespeare, tu che dici? Noi che abbiamo sempre vissuto di sesso, improvvisamente non è che possiamo diventare attori o attrici di Shakespeare o... No, non c'è dubbio. Ma tu mi sembra che non ci credi tanto a questa cosa. Tu dici una mossa pubblicitaria, che cos'è questa roba? Sicuramente una mossa pubblicitaria, dai. Ma senti, ma secondo te alla fine questo mito di Rocco Siffredi, del sesso, eccetera, di questo, insomma, no, delle sue dimensioni, è un mito un po', è un mito oppure, oppure c'è qualcun altro che secondo te è... No, è meglio di Rocco. Ascolta, qui non è un fatto del meglio di Rocco o peggio di Rocco. Ce ne sono sicuramente di meglio, perché comunque le ho provati. Ma ce ne sono anche peggio di Rocco. Infatti, Rocco uno dei tanti che comunque ha le sue capacità di fare il sesso, comunque con la sua dimensione. Non dico chissà cosa, insomma, dicerie, fantasie erotiche del popolino italiano, però insomma il sesso, io me lo ricordo bene, non è che era chissà quale grande, cioè tu dici non era granché, dici non era granché. Ascolta, io ho fatto sesso con uccelli più grandi, scusa se te lo dico. Ah, vabbè, tu stai dicendo che alla fine le dimensioni non sono poi così importanti. Poi, senti, non è il fatto della grandezza, del come si usa. Senti, no, ma una cosa mi incuriosisce. Lui dice di essere malato di sesso, di non poterne fare a meno. Ma è vero? Ti ricordi qualche episodio? Cioè di essere proprio assatanato dentro, fuori dalla scena? Quando noi eravamo in... quando giravamo i film, quando ha girato con Moana o quando ha girato con me, e tutto sommato non mi pareva tanto malata, perché poi se ne andava, perché avevo detto, insomma, non... finito, una volta finito che abbiamo girato le scene, la sera se ne andava per cavoli suoi, non era così tanto malato, su dai. C'è tanto dipendenza, come mai adesso dichiara che non... Perché vuole guarire, tu non sei mai stata malata di sesso? No, mi piace il sesso, però certamente lo utilizzo come mi pare e mi piace a me. Magari esiste anche svariati modi di fare il sesso, si può anche fare sesso a modo mio, nel senso che io posso anche fare utilizzare un fallo finto oppure fare masturbazione. Sì, vabbè, certo, non hai bisogno di un uomo, diciamo. Mi incuriosisce una cosa, sei mai stata con un nano? A me mi mancano i nani e i cinesi. I nani e i cinesi, sì, lo so, i nani e i cinesi. Hai provato tutto tranne i nani e i cinesi. Nani e cinesi, perché di tutti i paesi del mondo... Hai provato tutto. America, sì, ma ho provato di tutto. Altra domanda, è così difficile per una pornostar trovare un fidanzato? Personalmente, della mia esperienza, sì, perché diventano gelosi. L'uomo diventa geloso. Il problema è che non dovrebbe essere normale, perché se un uomo... Che è un lavoro come un altro, è un lavoro come un altro. Esatto, come fare l'impiegato statale. Come fare l'impiegato statale? Non esageriamo. Non è proprio la stessa cosa, l'impiegato statale. Scusa. Ma per me è come che vai, che timbri la cartella della giornata, vai, giri il film e poi torni a casa. Sì, più o meno potrebbe essere così, però è un lavoro un po' diverso. Vabbè, cara Ilona, ti abbraccio, un bacio, ciao cara. Un bacione. Ciao, un bacio. Arrivederci, signore. Va bene, andiamo a Roma, Anna Maria, vai. Anna Maria, vado, di che parliamo? Ma che ne so, hai chiamato tu, mica io. Mica sì, mia. Ho cagato io, ma ora fa. Dimmi, cara, dimmi, fatto, dai. Era sul fatto che sentivo Fiore che diceva quelle cose un po' allucinanti, che sinceramente mi lasciano un po' perplessa, perché se uno ha un figlio, se a Fiori gli dovesse capitare di avere un figlio che ha tendenze omosessuali, io non credo che la deve vivere come una tragedia. Beh, quello la vive come una tragedia, sono affari suoi, mica lo vuole ammazzare, semplicemente se si presenta col fidanzato non gli apre la porta di casa. Sembra normale che un genitore si comporti così nei confronti di un figlio? Se fossi nel fidanzato mi vergognerei a essere presentato. Vabbè, adesso stiamo facendo un castello inesistente, cioè prima uno dei figli di Fiore deve essere omosessuale, e poi eccetera. No, eccetera. Ho detto che deve essere, avete fatto l'esempio voi prima, no? Sì, vabbè, allora io credo che un genitore, se veramente ama un figlio, deve accettare il figlio per quello che è. Vabbè, ma signora, lei è della partita della nostra chiesa, d'accordo con noi? Di che stiamo parlando? La nostra chiesa, è della nostra parrocchia, è della nostra parrocchia. Io sono d'accordo quando si dice che certi atteggiamenti da parte di certi partiti politici creano seri problemi a questi ragazzi e queste ragazze. Non è vero, ma se ne fottono altamente. Ma quel ragazzo perché l'hanno menato sul lato buco? Vabbè, ma quello che c'entra? C'entra? Ma perché quell'altro ragazzo che si è buttato dalla finestra è morto? Sì, ma non è perché brava, hai ragione, esattamente questo. Ma stiamo scherzando? Istigazione al suicidio? Ma quando mai? Cioè, dovrebbe fare un esame di coscienza. Bravo. Anzi, io dico una cosa di più, che tutti quelli che hanno quest'odio nei confronti di gay è perché sono gay latentemente. Sono gay, lei dice, sono gay latenti. Sì, Alberto da Foggia, ciao Anna Maria. Terrore. Ho capito. Alberto, vai. Luciani, ciao, buonasera. Volevo dire, se tu chiedi a Parenzo, perché a me mi fa incazzare, perché non è uno stupido per quanto riguarda la difesa di tutti i popoli. Lui difende tutti i popoli, meno che i palestinesi. Ma non ho mai detto nulla del genere. Io non ho capito. Lei dice, Parenzo, difende tutte le minoranze tranne i palestinesi. Lo faccio da Parenzo. A amici miei, siamo al top, eh. Allora ragazzi, chi ci sarà dopo Rocco Siffredi? Volete candidarvi al ruolo di pornostar dei prossimi anni? Beh, dovete fare una cosa molto semplice, chiamare al 02 46 52 40 10. Poi distribuiremo i vostri curricula a chi di dovere. Poi una seconda cosa, pensate che avere un figlio gay sia una disgrazia? Come pensano diversi interlocutori che passano qui dalla Zanzara, caro Parenzo? Beh, se pensate che sia una disgrazia, se pensate che sia una malattia, se pensate che si possa curare l'omosessualità, se allora pensate... siete pronti per Forza Nuova? No, ma siete pronti anche per chiamare alla segreteria telefonica della Zanzara 02 46 52 40 10. Diteci la vostra, 02 46 52 40 anche 10. No. Siete tutti quanti ignoranti, se volete stare dalla parte dei Rom, fate come i comunisti hanno capito tutto, per non essere rubati nelle loro case, li assecondano nei talk show, nei salotti, assecondano, quindi o vi fate comunisti o vi fate Rom. Mi volevo riferire a quei signori di prima che dicevano di mettere i zingari nei compattatori. Ma dico, ma stiamo scherzando ragazzi, cosa stiamo dicendo? Non dobbiamo metterli nei compattatori, perché poi se li mettiamo nei compattatori dobbiamo anche smaltire le scorie tossiche. E beh, se vede che apparezzo gli zingari gli massaggiano il derivano per bene, come vuole lui. Cruciani apparezzo, li dichiarate etero e tendete una mano ai gay, rendendoli felici. Incappettateli e li renderete ultra felici. I vostri gentili messaggi, sempre molto gentili, sempre molto di umanità bestiale. Esatto, il popolo. No, non è il popolo. Le viscere. No, non è le viscere, così. Sì, le viscere, sì. Gli elettori di Forza Nuova. Le viscere, ma che c'entra? 3, 4, 4 appunto, persone. No, ma non è così. 02 46 52 40 10. 02 46 52 40 10. Giovanni da Isernia. Vai, Giovanni, vai. Cruciani, dimmi quello che pensi, vai. Per i gay. Che cosa ho io? Lei è ossessionato dai gay. Io non sono ossessionato dai gay, sono altri che sono ossessionati da questo tema. È una trasmissione. Guardi, che ha perso, prima che ha perso le sue caratteristiche. Vabbè, ma quello sono cazzi nostri. Lei e diventa oltre non si deve chiamare più Zanzara, si deve chiamare Radio Gay. Allora, amico mio, questa è vecchia questa battuta. Non parlavamo di questioni che riguardano omosessuali e gay da una vita. Lei mette la questione gay in qualsiasi argomento di che lei tratta. Ogni ospite che lei intervista, ogni persona che interviene, le deve fare la domanda: è gay? Ma suo figlio è gay? Ma ha un parente gay? Nel suo palazzo c'è sì. Gay? Allora qual è il problema? Non è che tra poco ci aspetteremo un suo outing. No, ma le cose non sono collegate, Giovanni. Non sono collegate le cose. Poi, anche se facessi coming out, cosa accadrebbe? La cosa la colpirebbe molto? No, colpirebbe. Lei lo sa, io ho un argomento che utilizzavo tante volte. Nel suo palazzo, in un condominio, è pieno di gay, è pieno di froci. Lei lo sa, uno su 10, matematico. Eccolo. Nel suo palazzo, sicuramente ci sono froci. Probabilmente un suo vicino di casa è frocio. Ma è possibile che questa probabilmente lei quanti figli ha? No, io non ho figli. Non ho figli. Nipoti, figli, parenti, quanti ne ha? Io spero che non ci sia nessuno. Spero che non ci sia nessuno. Che è una malattia? Non è una malattia, nessuno dice che è una malattia. Però lei spera di non avere nessun frocio in famiglia, diciamo, no? La popolazione italiana è fatta dall'80-90% di eterosessuali allora? E il 10% e il 20% di omosessuali. È possibile che nella sua trasmissione si parla 90% di gay? Ma questo non c'entra nulla. È un argomento che riguarda anche le persone che non sono gay. Dai, su. Sì, ma è sempre lo stesso argomento. Io la seguo da 10 anni. Non vabbè, è Giovanni, che... ho capito. Raffaele da Napoli, dai, Raffaele. Raffaele, sì, vai. Buonasera, Peppi. È da Parigi che sta aspettando, non fa niente. Vai, dimmi, caro. Peppi, io vorrei parlare con Parenzo. Sta qui, Parenzo. Eccoli qua, buonasera. Buonasera, ci ho portato la pillola. Hai portato la pillola, caro. Perché cosa? Scusa, la pillola perché? Perché lui parla sempre dei Rom, difendi i Rom. Mi auguro che tu la figlia è Ma non ho capito che pillola hai portato, che non si sente bene, Raffaele. Che pillola gli hai portato? Ho portato la pillola che per dirgli che si deve sposare la figlia con un rom. Cioè, ah, tu dici, ma non c'è bisogno della virola, magari la figlia incrocerà un rom nella sua vita e si sposerà con un rom. Se lo sposi, ma si fa parte integrale della famiglia. Parte integrale. Parte integrale, sì, parte integrale. Cioè, tu, Parenzo, faresti sposare tua figlia con un... Faresti sposare, non è che dai autorizzazioni. Comunque, saresti contento se tua figlia si sposasse con un signor rom? Io spero che mia figlia sposi un bravo ragazzo. Vabbè, un bravo ragazzo. Se fosse rom... Bravissimo. Se fosse rom, un rom che abita in una tendopoli, in una baraccopoli, in un campo rom. Assolutamente no, perché non saresti contento dalle tradizioni che io ho trasmesso a mia figlia. O sposa un ebreo, si deve sposare per forza con un ebreo tua figlia. Ma tendenzialmente quello che la fa felice, però sarei felice se fosse così. Se fosse un ebreo, ma come cazzo si fa? Dico, beh, per forza un ebreo, io divento pazzo per questa cosa. Ma, anche ma perché uno, saresti felice? Se uno che è cristiano, cattolico, devoto, qual è il problema? Va bene, ma perché è una tradizione diversa? È una tradizione diversa. Ma che vuol dire? Ma gli ebrei devono andare per forza con gli ebrei? Ma no, chi l'ha detto? Certamente. Però uno, come dire, va con quelli che sono magari. Ma va con uno con cui va d'accordo, no? Con uno. Senza ombra di dubbio, ma magari c'ha un'affinità culturale su alcune cose che non ha con il ragazzo rom. Ma mica l'ebraismo è un'affinità culturale, ma beh, anche di tradizioni, di fare il bebè, il bubù, il Natale, il non Natale, che ne so io. Pazzesca. Rudy, si chiamano affinità culturali, così si chiamano. Una setta diventa. Rudy, Bari, non c'è. Francesca da Napoli. Si avvicina a una persona perché si innamora di qualcosa. Ma sono come i cosi che dicono di come quelli che si devono accoppiare tra di loro per la razza eletta, è una cosa assurda. Francesca da Napoli, dai. Spero che si innamori di uno di cui ha stima, fiducia. Ma abbiamo capito tutti. Vabbè, quella è la base. E penso che però abbia un sistema di valori che sia simile al suo, credo. Pronto, posso parlare? A me è capitato così. Dimmi, Francesca, dai. Dimmi. No, niente, volevo dire che alla fine c'è l'omosessualità come questione politica, una cosa che è ridicola per noi, che veniamo da una generazione successiva. Parlare ancora come se fosse un problema, se uno è gay o è lesbica. Ho capito, ma se qui ancora non abbiamo una legge, tutti quanti si aspettano una legge, eccetera, se qualcuno ne parla, se il signor Dolce Gabbana fa, i signori Dolce and Gabbana fanno un'intervista in cui dicono alcune cose, se ne parla perché se ne parla. Questo è il punto. Ma basta. Allora, lei quanti anni ha? Allora, quanti anni ha lei, Francesca? 24. Tu hai 24 anni. Probabilmente per te questi argomenti qua, ma come è giusto che sia, ma anche per me che ne ho molti di più, io ho il doppio dei tuoi, 48 esattamente, 24, 48, il doppio. E per beh, me fai 50. Per me il problema è che è un fascista, fa ancora politica, si candida, mette manifesti nonostante sia fascista, e invece i gay non hanno i diritti che dovrebbero avere in ogni paese democratico. Dolce Gabbana hanno ragione, nel senso che se uno deve rispettare il libero pure pensiero, se loro dicono semplicemente noi siamo, ma certo che hanno ragione, ma non c'è dubbio da questo punto di vista, loro, sì, diciamo che hanno leggermente di tutti i gay del mondo contro, cioè sono follie, perché quelli comunque sono gay, non è che stanno attaccando se stessi o l'omosessualità, hanno semplicemente detto io i figli con la fecondazione assistita non li voglio fare. Come se io magari non voglio fare l'aborto, però poiché non voglio abortire e metto in piazza a urlare contro l'aborto, no, non lo farei mai. Semplicemente sono scelte personali e si devono strumentalizzare sempre in Italia, come se fossero questioni politiche. Cioè, questa è la cosa che noi non capiamo, che si... No, ma il problema non è questione della strumentalizzazione, il problema è molto semplice. I signori Dolce Gabbana per molti sono stati un'icona, delle icone gay. C'è qualcuno che sostiene che nel mondo gay tutti la debbano pensare allo stesso modo ed è una follia. Ci possono essere anche persone che dicono no al matrimonio, no all'adozione, in maniera tranquilla, serena, senza per questo voler bruciare i gay in piazza, punto, molto semplice. Dunque anche queste opinioni qua, che saranno diverse da quelle del signor Scalfarotto, che saranno diverse da quelle della signora Concia, che saranno diverse da quelle della establishment gay, anche dalla mia amica Vladimir Luxuria, hanno diritto a non essere trattati come dei paria, come dei pazzi, come dei reazionari, semplicemente perché dicono la loro ed esprimono il loro pensiero, che non è che dicono i gay vanno trattati. Certo, la ricchezza, poi uno può fare tutte le analisi che vuole, no? Essendo dei gay ricchi magari hanno meno problemi di altri, o si possono permettere certe posizioni, ma questo è un altro discorso. La cosa fondamentale è che li hanno massacrati in nome del fatto che tutti i gay la debbano pensare allo stesso modo. Lei è ossessionato dai gay. Amici miei, abbiamo qui un personaggio, caro Parenzo, che ti darà delle lezioni su come ti vesti, perché tu ti vesti in maniera penosa. No, penosa. In maniera penosa, no, tradizionale, scontata. Tradizionale, semmai classica, eleganza classica. È una roba inguardabile. Non spesso, dico da chi mi vesto, spesso, perché non voglio fare marchetti. No, ma spesso inguardabile, devo dire la verità. Spesso inguardabile, però. Invece che... Ma spesso è inguardabile. Metto, ma non è gli che... stessi abiti che mette l'avvocato Trucco, per intendersi. Però ormai, ormai il personaggio che tra poco entrerà qui alla Zanzara, sì, va oltre la questione dello stile, perché fa il giudice in un talent, credo quello sulle notti sul ghiaccio, su Rai 1, va bene. Però adesso partirà con un programma che, di cui si è discusso soprattutto per una pubblicità sul Corriere della Sera. Lui nega che dietro questa pubblicità, quella del marito cornuto, ci sia il suo zampino. Però chissà. Enzo Miccio, ciao, ciao Enzo, come ciao, stai? Ciao ragazzi, buonasera. Ciao, ancora caro. Cornuto? Ho capito, ma te lo so che ti hanno già chiesto se ci sei tu dietro, se non ci sei tu, perché stai per partire con questo programma che si chiama Alta Infedeltà su Real Time, che parla di cose molto interessanti, i tradimenti. Io le sono, corna, io sono ragazzi, uno specie. Ma perché dovete farmi parlare? Io faccio matrimoni, le corna, non è un argomento. Ho capito, ma non si chiama Alta Infedeltà sto programma? Ma non lo presento io. Ma non lo presenti, no, però ma... sei dietro questa cosa qua. Non lo presenti, però insomma non ma sei non solo sei... perché sto povero cornuto si chiamava Enzo, ragazzi. Ma no, ho capito, no, ragazzi, è stata una bellissima manovra che la mia rete si è inventata con quelli del marketing, e alla fine questo poveretto si chiamava Enzo come me. Ma io voglio fare solo matrimoni, io premio l'amore, le corna. Vuoi premiare altre... però le corna sono una parte fondamentale del matrimonio. Io sostengo questa cosa, caro Enzo, che senza le corna un matrimonio non può durare, non è vivo. Esatto. Dimmi la verità, no, dimmi la verità. No, io sono monogamo, diciamo, di natura, vorrei essere che tu sia di natura monogamo, questo d'accordo può darsi. Però può darsi, vuol dire, secondo un po', non lo so, molto. Non lo so. No, se tu me lo dici, sai, non è facile dire invece no, io tradisco. Io per esempio lo dico sempre, cioè dico sempre io sono un traditore seriale, cronico, sì, sì, sì, cioè sì, io quella, sai la scenetta quella della patente, la dobbiamo rimettere, quella della patente di Verdone. Quella dice sono io ogni volta presento la patente con i dati, non sempre, prima non lo facevo nel passato, con i dati dicono traditore seriale, dopo mi piacciono le donne, sicuramente ti tradirò, mi piace fare sesso, eccetera, eccetera, eccetera, c'è una serie di caratteristiche. Questo sì, ma è ovvio, però poi nei momenti in cui uno si assume delle responsabilità deve sapere anche resistere alle tentazioni. Vabbè, non è vero che la chimica è sempre forte, però vabbè, uno deve... Ma che sei un vescovo? Padre Dio, cioè, tipo, padre Dio. Allora, però smentiamo una volta per tutte, oppure invece confermiamo che questa lettera... Smentiamo una volta per tutte in diretta, anche perché sto cavolo di programma, visto che non lo presento io, sono anche un po' incavolato, perché cavolo, sì, facciamo tutta questa pubblicità a un programma che è vero che è della mia rete, di Real Time, eccetera, ma non lo presento non io. Non lo presenti tu, vabbè, d'accordo, tu dici, potevano fare... Ma magari fosse successo per un mio programma, dici te. Per no? Il mio programma, tutto sto batage, cavoli. Ecco, allora, vabbè, basta. Alta Infedeltà non lo proponi tu, c'era scritto Enzo su questa lettera. E l'altra ma si chiama Lucia. No, vabbè, d'accordo, ci mancava una che si chiama Lucia, non l'avrei mai sposata, una che si chiama Lucia, dai. Però scusa, perché ti sta sul cazzo il nome Lucia? No, ma non è chic. Non è chic, Lucia, l'abbiamo scoperto da Enzo Miccio. Lucia la può sposare Renzo. La può sposare Renzo, no Enzo. Però io dico una cosa. Allora, è chiaramente una pubblicità, perché ho visto oggi, ecco, c'ho il giornale qua davanti a me. Ho il giornale, ecco qua, Alta Infedeltà. Real Time, ogni tradimento ha due facce, due voci, due racconti. Vabbè, raccontano la gente che si fa le corna a Real Time. È normale, è una cosa tranquilla, ragazzi, farsi le corna. State, quando tradite... Tradite qualcuno, dovete gentilmente chiamate Real Time, oppure chiamate prima e meglio la partner o il partner e dire meglio: guarda, ieri sera mi sono fatto una bella trombata con qualcuno, io però ti amo lo stesso e torno da te perché sei il numero uno, sei la numero uno. Questo bisognerebbe dire: torno da te perché ti voglio bene, però ieri sera avevo un impulso e mi sono fatto un'altra o mi sono fatto un altro. Sarebbe eccezionale, Enzo, no? Che dici? Io sono... No, ma perché non mi chiamate come consulente, che sono fantastico? No, non sono d'accordo, assolutamente non sono d'accordo, perché in questi casi tu devi negare sempre. Negare sempre, tu dici, bisogna negare sempre. Anche l'evidenza, ecco. Negare anche l'evidenza. Dopo il traffico torniamo con Enzo Miccio, che io non so se ha mai fatto coming out nella sua vita. No, non devi fare nessun coming out, hai fatto. Ma che devo coming out? Che ne so, magari... ho capito, tu sei sessualmente, come sei messo? Cioè sei omosessuale, sei normale, etero, diciamo. Ma pensi che sia interessante questo? Molto interessante. Perché c'è la vicenda Dolce Gabbana, giusto per inquadrare, no? Giusto per inquadrare. Buona, dunque... Okay. Non hai mai fatto coming out in vita tua? Ma non c'è mica bisogno di farlo, cioè io so benissimo dove, da che parte sto, non è che devo dirlo per forza a tutti quanti, no, gli altri. Però, l'importante è che io lo sappia. Lo sai, cioè, sei gay, sei gay, ti piacciono gli uomini, ovvio. Oh, vabbè, ma mica è una cosa strana, noi siamo una trasmissione aperta, siamo fuori di matrimoni, adozioni, tutto. Allora ragazzi, è con noi il grandissimo, direi, grandissimo Enzo Micci. Una volta non se lo fidava nessuno, io invece già avevo capito che sarebbe diventato comunque uno molto famoso, molto conosciuto dalle reti, come dire, che una volta erano un po' disperse. Non si fidava nessuno. Ma prima che non si fidava nessuno. Una volta, sto dicendo. Una volta. Adesso invece... Si copiano adesso, possiamo dirlo? Esatto, bravo, sì. Ecco. In che cosa vi copiano, per esempio? Nei programmi. Cioè copiano, succhiano idee, è vero? Esatto. Questo è vero. Esatto. Vabbè, io voglio capire una cosa, Enzo Micci, ma con chi stai? Qui ormai è evidente la cosa, con Dolce, i signori Dolce e Gabbana, che pure la pensano in maniera diversa, o con quelli che come avvoltoi sono saliti addosso e dicono no, boicottare perché devono tutti i gay, la devono pensare allo stesso modo, con chi stai? Ma no, ma ci mancherebbe, voglio dire, non c'è da boicottare un po' niente, ognuno ha la possibilità di esprimere la propria idea a proposito poi di un argomento veramente così serio e delicato come quello che può essere adozione gay, quindi vabbè, io tu ti sposeresti? No, io non mi sposerei in questo momento, non vorrei neanche un bambino per lo stile di vita che ho e per l'impossibilità di poterlo seguire. Ho delle idee molto molto profonde su questo argomento. Cioè, pensi che l'adozione non sia una roba da fare per i gay? Cioè, no, invece, tutt'altro. Io ho detto per me in questo momento. Sì, certo. Per me in questo momento, però, io trovo che nel momento in cui ci siano delle persone che hanno uno stile di vita che lo consentono e che hanno un forte istinto naturale, che è quello della paternità, perché voglio dire, è vero che si parla di famiglia, che è la cosa naturale, ma non vogliamo sopprimere l'istinto naturale di essere padre. Adesso non è che uno può essere padre. Cioè, due padri o due madri possono certo crescere tranquillamente un figlio? Ma ovviamente sì. Se introducessero l'adozione gay in Italia, saresti d'accordo? Cioè, saresti a favore dell'introduzione della... Assolutamente sì, e probabilmente tra qualche anno, forse quando invecchierò un pochettino, forse un bambino me lo adotterò. Chi lo sa? Voglio dire, ci però sono lo faresti. Beh, non adesso. Bambini... Assolutamente non adesso, ma perché... Per lavoro, dici, per gli impegni che hai. Per una questione che un bambino ha comunque bisogno di amore, di affetto. Ma allora diventa egoismo, però. Sai che dopo una ma non è questione di egoismo, ognuno ha il figlio quando vuole, non è che quando lo vuoi tu, Parenzo. Non ho detto questo, ho detto che se uno dice faccio tutta la vita i cazzi miei, poi dopo a 60 anni... Non ho detto che sto facendo i cazzi miei, sto dicendo ascoltami un attimo, ha detto una cosa. Ma non dicevo di lui, siccome adesso è impegnato nel lavoro e altre cose, non si sente di poter dedicare del tempo al figlio. Benissimo. Quando sarà un po' più avanti negli anni, scusami se interpreto il tuo pensiero contro le maldicenze... Ma nel momento, non quando sono rincoglionito che non riesco ancora più a curarmi. Io lo dico che non è tutto alla carte, no? Ma che c'entra la carte? Uno ha il figlio, può voler avere un figlio quando vuole, ma ragazzi, ma questa adesso è la libertà. Scusatemi, il figlio non si programma, voglio dire, non è che adesso nel 2015 nascono bambini ogni volta che due persone si accoppiano, cioè voglio dire, in questo caso si programma invece sempre di più. Cosa? In questo caso si programma, nel caso tuo per esempio è una programmazione, diciamo, no? Così come fanno tutte le tante coppie assolutamente che conosco, che dicono non è il momento di avere un figlio perché non ho un lavoro sicuro di mio marito, la casa troppo piccola, che sia. Ma quindi dico, se vogliamo parlare seriamente continuiamo, altrimenti ma zino mio qua. Sono d'accordo, dico semplicemente che non è che poi uno a 65 anni si sveglia e dice to voglio ma non ho un detto 75 anni, ma tu lo sai, magari io voglio lavorare solamente altri 5 anni, tanto sono ancora molto giovane. Infatti, ma non capivo, Parenzo, perché pensi che quello che ha detto a lui, ma perché ma come non capisci? No, perché lui diceva magari più avanti, io non so quanti anni ha. Ma più avanti che ne so, tra 5, 6, certo, a 70 anni non penso che gli voglia adottare un bambino a 70 anni, no? Uno a 65 anni adotta un figlio che è tutto alla carta. Glielo danno a 75 esatto, anni. Chi te lo dà? Esattamente. Ci sono dei tribunali molto attenti su queste per fortuna, cose. E comunque, esatto. Io non so se voi, nella vostra giro di amicizie, conoscenze, eccetera, avete mai avuto persone che conoscete personalmente, non per sentito dire, che hanno adottato i bambini e che hanno una famiglia felice, che fate di due papà o di due mamme. Siccome invece io ne ho tanti di amici che hanno situazioni di questo tipo, e che parliamo di bambini che magari erano in situazioni meno agiate, crescono come gli altri, maltrattati, eccetera, eccetera. mentre in questo momento sono andati invece una famiglia fatta di due papà, di due mamme, che gli danno tantissimo amore, esattamente come farebbe una papà e una mamma. Poi voglio dire, ognuno poi è libero di farlo o non farlo, l'importante è che non stiamo togliendo niente a nessuno, cioè, mi piace il fatto che ti sei scaldato, però ti sei scaldato, questo è un argomento molto serio, mi piace, ragazzi, che vogliamo cazzeggiamo su come ti vesti, altre cose. No, ma ti scaldi, mi piace quando il fatto che ti sei scaldato su questa cosa contro Parenzo, che ha detto no, tu non puoi fare un figlio quando vuoi tu, non puoi avere un figlio quando vuoi tu. Quello vuole avere un figlio, giustamente lo vuole programmare quando avrà il tempo di occuparsene, chiaro? Ho detto semplicemente che spesso accade che uno a 60 anni, 65, si sveglia e dice "Toh, vorrei un figlio". Ma chi la ma chi te allora, lo dà le leggi, 70 per fortuna, anni? Ma chi te lo dà? Che tu non lo puoi fare alla carta. Vabbè, quando te pare. Questo io voglio chiedere una cosa, voglio chiedere una cosa a Miccio, ma il politico italiano che si veste peggio, secondo te chi è? C'è la felpa di Salvini e la canottiera di Bossi. Dai, qual è la più la canottiera di Bossi. È meglio della anche se è divertente tutto sommato, no? Voglio dire, vedi un personaggio che come Bossi con la canottiera ti fa sorridere. Ma è meglio la felpa o la canottiera? La felpa di Salvino o supero sono due oscenità tutte e due? Sono due oscenità, però la canottiera è un po' più criminale. Più criminale. Miccio, sì, però sì, forse sì, sarà d'accordo con me. La canottiera bianca di Landini, quella è... Ma quale? La canottiera quella sotto? Beh, quella, ma è oscena pure quella. Quella di Landini è chic. Le canottiere non si possono guardare. La maglietta sotto, di quelli della salute, dice la canottiera, sì, della salute, esatto. Dici? Sì. Beh, no, voglio dire, ma Landini qua, non lo so. Landini ce l'ha 55. Che poverino, quel colpo d'aria gli viene poi il reumatismo, meglio che se la tiene. Ma se uno c'ha sotto una cosa, importante è che non si vede, uno può avere pure la magliettina, importante è che noi non la vediamo. È fondamentale questa cosa qua. Ma Renzi come perché si vede? Tra canottiere e tappetino di pelo è meglio che non si veda niente. Qual è il tappetino di pelo, scusa? Ah, ho capito, è un po' villoso. Ah, il villoso. Tu ti depili tu, no? No, io sono media, meglio non apro la camicia oltre il primo bottone, capisci? Ah, oltre il primo non vai, certo, cioè sei elegante, contrario al fatto che si vede. Sì, questo è vero, hai ragione. Bravo, su questo. Molto elegante. Cioè, tu non ami, per esempio, quelli che non fanno come vedere te con le catene. No, io non ho nessuna catena. Ma che dici? Diciamo che io il 90% del mio tempo sono con la cravatta, poi quando non ce l'ho sono poi sbottonato il primo bottone. Solo il primo bottone. Per te questo qua è un segno, diciamo, di eleganza, come la intendi tu. Quelli che, per esempio, sbottono. Sono a mio agio, non è questione di eleganza, è questione di essere a tuo agio. Per esempio, chi apre due o tre bottoni per far vedere il petto, secondo te è un cafone? Beh, sì. Rottamarli addirittura. No, ho detto che sono ottamarli. Ah, tamai, ho capito, rottamarli. Sì. Senti, e Renzi come si veste? Secondo me è come un fighetto di Zara. Beh, roba di poverino, Zara, no, per carità. Ma No, gli abiti sono belli, Belli, no, dici? Ragazzi, voi non avete l'occhio lungo, perché lui ha abiti sartoriali, Lui ha dei bellissimi abiti sartoriali. Anche costosi, dici? Non so quanto paghi al suo sarto, però sono sicuramente fatti su misura. Fatti su misura. Non parliamo di sarti. Che voto dà? Sì, esatto, sono i sarti quelli che davano i vestiti a Lupi, eccetera, forse anche alla sua segreteria. Ma che voto daresti a Renzi? Un bel 7,5. 7,5. Salvini con le felpe, 4. Cioè. NC, non classificato. E il Berlusca che ancora il maglioncino nero di Berlusca. Evergreen. Cioè, il maglioncino nero di Berlusca comunque vale almeno la sufficienza, vale. Ma c'è di più, cioè di più, dire, di più. È il suo stile. E suo stile. Il politico più elegante, o non esistono politici eleganti secondo te? Uno che hai visto particolarmente elegante? No, devo dire che i politici fanno tutt'altro, cioè non hanno proprio, sono il contrario dell'eleganza, diciamo. Sono sono classici, diciamo. Sono classici. Degli uomini classici, giusto così. Anche il nostro nuovo presidente, un uomo di Mattarella, sì, super classico. Sarebbe strano vederlo vestito come Miccio, diciamo, no? Esatto. Sarebbe molto strano. Molto strano. Il presidente della Repubblica. Ma figuriamoci. Vabbè, caro, un abbraccio, a presto. Aspetti, i matrimoni che sei ancora, dici che tu fai ancora matrimoni, soprattutto, non c'entri niente con le cose. Ma il matrimonio più cafone, lo sai, ti volevo dire una cosa. Secondo me il matrimonio più cafone che ho visto recentemente è stato quello del giocatore della Juventus Vidal in Cile. Tu devi andartela a vedere, è una roba che non ho mai visto in vita mia, cioè di una cafoneria inaudita. Oltre il bene e il male. Ma una roba come che non ti chiama questo calciatore, no, perché tu sai vai che a vedere, vai a vedere matrimonio politica. Di Vidal, che è un giocatore fortissimo della Juventus. Venezia, Imola, Domodossola, Ancona, Lazio. Vidal si è sposato, credo, a dicembre. Esatto, come Bagnoschiuma Vidal. Si è sposato a dicembre in Cile, invitando cantanti, più famosi. Ha fatto un matrimonio, diciamo, nazionale. Una roba che tu aveva un vestito. Enzo, rabbrividire. Il matrimonio più cafonal che hai visto, qual è stato? Va bene, ho visto. Ah, ho capito, ho visto come si è vestito questo qua, che ben carino, è la pettinatura, volevamo parlarne. Ah, beh, la pettinatura, no, è bellissimo, no, con questa cresta sulla testa, il cravattone, ci sono tutti gli ingredienti, la giacca damascata, bravo. È una cosa agghiacciante. La Fremaglia Fantozzi, Vidal, come? Vabbè, caro, ciao, ciao, ciao, presto, ciao, ciao. Ragazzi, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ma sei fidanzato o no, Enzo? Sei andato. Pubblicità. Spettacolare, spettacolare. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella il kebab, guardava l'otaragna. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Ma non ho capito che stavi dicendo, Davide, non ho capito. Diamo la caccia al rom, guarda avanti, indossa una bella felpa, guarda oltre i monti, con sopra scritto il posto di dove cazzo ti trovi. Vedrai che il tuo elettore gabbato penserà che sei uno di loro. Ma Parenzo ama essere somatizzato dagli zingari? Somatizzato. Fai vedere quanto è bella la tua terra. Allora ragazzi, oggi a Radio Padania c'era, il divino Telma. No. Sì, beh, sì, sì. Ma quello è il posto, posso dirti che quello. Oh, ha trovato la collocazione giusta. Il guarda. Divino Telma, sentite come l'introduzione. No, no, ma non si scherza su questo, ha trovato la collocazione giusta. Il divino Telma a Radio Padania. Ha eccezionalmente accettato il nostro appuntamento su Radio Padania Libera con Grana Padana, ovviamente. È il mio amico Golfari, divino, questo. Lei è presente? Sì, vi salutiamo e vi benediciamo da Portofino, siamo al lavoro come sempre, stiamo preparando la radunanza nazionale che avrà luogo al castello di Coltanze l'11 aprile. Ma l'adunanza nazionale di ma cosa? È mio amico Golfari! Vabbè, comunque, l'adunanza nazionale di cosa? Una cosa incredibile, eccezionalmente a Radio Padana. Ma quello se lo chiami parla il divino, cioè va pure a casa di Parenzo a fare uno spettacolo, no, ti assicuro al bambino che dai, non lo chiama. Comunque senti le grandi previsioni. Ma secondo te il bambino cresce che lo vede fa uno spettacolo. Senti le grandi previsioni di Hotel, ma la strategia di Salvini è vincente. Vabbè, ho capito, certo, ma lo dicono i sondaggi. Tutto per la strategia di Matteo Salvini è una strategia certamente vincente, molto intelligente. Punto 3 è in particolare l'approccio al problema, sì, molto serio e sottovalutato. Aspetta. Da una classe dirigente palesemente, sì, fuori della realtà, vale a dire l'invasione che è in atto in terra italiana. Un paraculo pazzesco. Ma è tutte cose che sappiamo. È andato lì a leccare il culo. È andato lì apposta. Ma è un paraculo vero sto personaggio qui. Notiamo la strategia di Salvini, ci sembra essere contro gli immigrati. Ascoltatori a Radio Padania. Ammazza divino, che previsione. Ci sembra che da noi abbiamo fatto un vaticinio. Ci sembra che negli ultimi mesi la strategia di Salvini ci sembra essere contro i rom. E pensiamo che continuerà su questa strada. Ci siamo dimenticati che protestano anche che vogliono Sky, questo me lo dice un mio amico, un mio carissimo amico che fa servizio celere lì, trattati di merda e tutto quanto, vogliono anche il servizio Sky. Vai vedere le tue braccia. Poi volevo rispondere a quella che ha detto i due della Zanzara. Allora, uno è un ebreo e l'altro è un fariseo. Io sono un fariseo. Bel clima lì dentro. Bello. Bel clima. Ieri sera ha telefonato l'Algerino alla Zanzara. E praticamente Parenzo gli ha detto siamo fratelli, eccetera, probabilmente anche fisicamente, esteticamente, eccetera. E gli ha detto a Cruciani sei peggio di Sammy Varin, siete peggio di Radio Padania. No. Mi ha insultato, io sono rimasto male, adesso non sei più razzista. No. Perché che comunque la ZAR ha 51 paesi a questo mondo musulmani, se non gli incomoda l'Italia può andare fuori per i coglioni quando vuole. Padania bella e libera. Guarda avanti. Giovanni, provincia di Cremona, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Io telefonavo per quel signore che ha 11 figli, Fiori. Fiore un altro, sì, dimmi. Ecco, che diceva appunto che lui ha paura di avere un figlio gay perché ha paura che poi cresca infelice. Ecco, io volevo dire che se cresce infelice questo figlio non è perché è gay, ma perché c'è un papà così. Vabbè, è una teoria, figlio, è una... Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Katia da Roma, ho capito. Dovrà... No, ascolta un attimo, dimmi, questo figlio dimmi. Qui dovrà nascondersi non dalla società, perché questa è società da chi? Qui, ma da suo papà, è una cosa assurda proprio. E io non sono né gay né omosessuale né niente, perché però mi immagino questo figlio che vita infelice deve fare con un papà del genere. Katia, Roma. Molto bene. Sì, buonasera. Dimmi, volevo Katia. Soltanto rispondere a quel Roberto Fiore, sì. Che io non capisco perché l'ho continuato ancora a chiamare. No, veramente non lo sentiamo io da due anni. Io vorrei solo sapere, quell'uomo lì, se c'ha una figlia femmina, sì. E spero che ce l'abbia, perché dovrebbe essere... Tra 11 figli una femmina ci sarà. Ecco appunto, allora che una figlia femmina venga violentata da uno dell'ISIS, no, che abbia l'AIDS e che gli lascia un mongoloide, poi voglio vedere se lui arrivo a dire mi ha fatto incazzare robe. Come una bestia, ma come si permette questo verme schifoso, condannato dalla Costituzione italiana, dalla nostra Repubblica, non dovrebbe manco parlare e apre pure discoteche o ristoranti in Inghilterra, perché poi c'è l'amicizia, ma quello una volta inglesi, sì. Vabbè, allora... no? No, una volta, però tanto l'ha fatto, perché qui chi va in galera poi dopo diventa figlio. Vabbè, no? Katia, ho capito. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, fra poco sentiremo un personaggio. Il personaggio è questo. È questo. Ti dà fastidio essere chiamato nano? Sì. Perché? Dipende sempre da come la si usa. Se una persona è gigante, che magari è alta 2 metri, non è sicuramente un'offesa. Se una persona è di bassa statura è un nano, è stata scelta così, quindi alla fin fine non è un'offesa. Però ovviamente bisogna sempre utilizzarla nei giusti modi. Quindi tu sei? Una persona normale, ho 2 braccia, 2 gambe e ho un cervello, non vedo differenza. Ho iniziato nel 2002 a nascere allungamenti agli arti, sono partito dalle tibie e il perone, tagliando l'osso proprio facendo una frattura e inserendo dei chiodi e quindi dei fissatori appunto esterni, poi girando delle viti crescere 1 mm al giorno. Davide Meneghini, ciao Davide! Ciao a tutti, buonasera! Come stai? Come stai? Salve. Ah, io molto bene, sono molto contento di essere qui con voi, insomma, in trasmissione. Allora, Davide è tra l'altro un conduttore radiofonico, quello che è, l'avete sentito, noi lo chiamiamo nano per convenzione, a lui non piace, ma noi lo chiamiamo nano lo stesso, mica non è un'accezione negativa. No, infatti l'ho sempre detto... Sì, assolutamente, ed è anche consigliere comunale, Parenzo, nella tua città, cioè Padova. Bene. Consigliere comunale in una lista eletta col tuo amico Bitonci. Ecco, quello è il suo problema, non tutto il resto. Cioè, in che senso il suo problema? Il suo problema è essere... No, che se di problema si tratta, che se io non credo che sia un problema, secondo te... non è particolarmente alto, quindi non... Non è il suo vero problema è Bitonci, non allungarsi le ossa. Ma mi stai dicendo che è meglio quello, meglio... No, ho detto chiaramente che il suo problema si chiama Bitonci. Vabbè, lasciamolo perdere con Bitonci, saranno affari suoi. Poi, dai, sì, ma appunto per il resto... Io bellissimo. Voglio capire una cosa, Davide, a me mi ha colpito quando ti ho visto alle Iene descrivere l'operazione che hai fatto. E ti confesso che non lo sapevo, è una mia ignoranza, cioè non sapevo che questa operazione per allungarsi il corpo fosse così comune tra i nani, cioè tra le persone che hanno questo tipo di problemi. Invece mi dicono che sia molto diffusa, ma quanto costa? Allora, beh, in realtà la sanità pubblica per chi ne ha bisogno paga, è passata, paga. Sì, sì, è passata. Cioè, però paga, un sacco di... paga la sanità pubblica paga per superare il nanismo, beh, diciamo. Giusto questo. Ma sì, diciamo che il termine scientifico è condroplasia, nel senso proprio perché il nanismo, diciamo, ci sono varie tipologie. E vabbè, certo. Che quella che tra virgolette che ho io, insomma, la condroplasia, e appunto sì, l'intervento in sé è appunto è passato dalla sanità pubblica. Ovviamente ci sono tantissime spese. Cioè, quanto sei alto adesso? Io sono 1,57. 1,57, sei partito dunque da 1,27. Da 1,27. Da 1,27, 1,57 si può dire, al di là della questione normale, che adesso hai un'altezza, insomma, che si può fare, cioè, no? Cioè, sì, me la sono guadagnata. Ma è molto dolorosa una cosa del genere? Sì, sì, sì, perché altro è molto lunga, nel senso che il dolore magari passa. Cioè, quanto hai fatto 30 centimetri in quanti anni? Allora, io ho fatto con delle pause, ho fatto il primo intervento, tibia e perone, ho guadagnato 15 centimetri di 11 mesi è durato. Più dopo c'è la fisioterapia successiva, che ovviamente anche è molto lunga la terapia. E dopo ho fatto le braccia, l'omero appunto, ho guadagnato 10 centimetri e successivamente ho fatto il femore con delle pause, ovviamente tra tutti gli interventi. E anche lì c'è stato un annetto di terapie e di veramente di allungamento proprio con il fissatore, insomma. DJ a Radio Stereo Città. Senti, però alla fine noi siamo curiosi soprattutto di una cosa, per carità, e te l'hanno chiesto anche di Iene. Bitonci è davvero così? Questo cioè curioso. In che senso Bitonci è così? No, non mi interessa l'intervento che ha fatto. Stai chiedendo a Meneghini se Bitonci è davvero così come si rappresenta, vabbè, oppure ha un aspetto antiumano? Cioè tu sei leghista, Davide, scusami. No, io non sono della Lega, io sono, ho appunto sostenuto Massimo Bitonci con la lista civica, ma non sono leghista, ecco. Non sei leghista, cioè i campi rom li chiuderesti, almeno questo sì? Diamo un tasso ma di leghismo. Lì, cioè, ogni caso a sé, bisognerebbe sempre essere, non è che si può, diciamo, sei un moderato, non sei leghista, diciamo la verità, sei super moderato. Però io ti voglio chiedere una cosa, il sesso per i nani com'è? Prima Ilona Staller è venuta da noi e ha detto gli mancano i nani, cioè non ha mai fatto sesso con un nano. Ma questa leggenda che dicono i nani hanno un pene, un organo sessuale pazzesco, è vero o non è vera? Ma lì ovviamente bisognerebbe, io nel senso posso dire la mia, però ovviamente non ho mai guardato quello degli altri, quindi non avrei un campione definito, insomma, riguardo. Nel senso, per quanto riguarda me, ovviamente sono dotato, però sei normodotato? Sì, sono dotato bene, diciamo, sono una bella misura. Ah, sei dotato bene, hai una bella misura. Sì. Quanti centimetri hai, scusami? A 18. 18 centimetri, sì. Capito Parenzo? 18. E Bitonci? No, ma Bitonci che ne no, sa, no, non si può sapere, va bene. Perché tu sei interessato non si chiama nanismo, ma a quello che lui ha raccontato, che è stato molto anche carino, alle Iene. Io sono più interessato invece... A che cosa? Al nostro amico all'aspetto ospite. Politico, diciamo. Sì, esattamente. Cioè, no, come no, fa uno no. Così frizzante, intelligente, che ha fatto anche un intervento così importante per superare il suo nanismo, a essere alleato di Bitonci? Questo è che io proprio mi manda ai matti a me. Ma perché tu sei razzista, sei razzista, no, sei razzista con mai. Bitonci, sì. Mai. Io voglio chiedere a Meneghini una cosa, ma Bitoncino. No, adesso ha fatto la battuta Bitoncino, capito, no, Davide? Bitoncino, ha fatto la battuta Bitoncino. No, Bitonci. Beh, insomma, lei ci può stare. Insomma. Il piccolo Bitonci, ognuno deve avere un piccolo Bitonci. Guarda che secondo me, se uno va in giro, c'è un problema, no? C'è un problema in metropolitana. Dunque, tira fuori i Bitonci, dice, ecco quando ti scateno. Guarda Bitonci, che danno del nano anche a te, lo sai, Parenzo? No? Spesso danno del nano anche a te, quel nano. Quando chiamano, quel nano, eccetera. Ma io non mi offendo, io sono 1,72, 1,73. Ti potrebbe raggiungere, Davide. Ma un altro intervento. Ma si può andare oltre. Ma non sono altissimo, certo, però. Si può andare oltre. Sì, però ovviamente io sono stato contento perché ho raggiunto la mia autonomia, mi bastava quello. Senti, ma scusa, 18 centimetri, ma è una cosa pazzesca, 18 centimetri era un. Era una misura ragguardevole, 18 centimetri di pisello, no? È capitata così oppure una caratteristica dei nani? Secondo me, secondo me è una cazzata, questa è una leggenda. Sì, questa. Sì, è una leggenda. Bisogna avere un campione più alto. Sei un po' invidioso, insomma. Mi pare, da come lo dici. Ma no, adesso, beh, no, sì. Invidioso no. Mi pare che insisti molto, t'ha colpito. No, ma il sesso per te è stato un problema, diciamo la verità. Ci hanno chiamato moltissime persone nei mesi scorsi, mm-hmm. Dicendo, insomma, ho aiutato un mio amico che è affetto da nanismo, eccetera, ad andare a prostitute, eccetera. Anche tu hai iniziato in questo modo, come dice la Biancofiore, cioè ad andare a fare sesso con una prostituta, oppure non hai avuto bisogno? No, non ho avuto bisogno, per fortuna. Poi io credo che dipende, cioè nel senso, ovviamente che è una questione di situazioni che ti incontri nella vita, c'è chi è più fortunato e dipende dagli ambienti che trovi, che incontri, so, dipende. Quante donne hai avuto? Donne, tutto, tra fidanzate, eccetera. Uomini, con quante sai? Donne? No, ma non credo, no? È etero, che sei etero, no? Sì, no, quello sì. Ma saranno in totale con cui ho avuto rapporti 5-6. 5-6 con cui ho avuto rapporti. Fidanzate, sì. Diciamo tre. Mai andato a prostitute? No. Hanno sempre apprezzato, insomma, le tue misure, immagino, le signore. Ma sì, lì secondo me dipende molto dalla personalità di una persona, cioè nel senso, sì. Veramente... potrebbe esserci, dunque, se uno volesse fare una battuta, non hai avuto bisogno di allungarti, hai avuto bisogno di allungarti tutto il resto tranne quello, diciamo, no? Sì, è vero, sì, assolutamente. Almeno lì, insomma, non mi è servito l'intervento. Almeno lì non è servito a nulla. No. Vabbè, caro Davide, ma metti la musica, tu parli, che fai alla radio? Ma io sì, faccio appunto adesso faccio un po' meno come speaker, perché sto facendo un altro lavoro e consigliere, i tempi sono un po', diciamo, limitati. Però sì, facevo appunto un programma musicale a 360 gradi, intervistavamo ospiti, personaggi insomma musicali, ecco, molto legato alla musica, legato magari alla storia dei Doors, oppure la musica, allungamento di gambe e braccia, deve essere una cosa incredibile, dolorosa, eccetera. Però non ho avuto bisogno di fare una cosa fondamentale, l'allungamento del pene 18 centimetri, beh, è una cosa incredibile. Ciao Davide, a presto, ciao. Ciao a voi, ciao. Ciao, saluti, ciao. Caro, arrivederci. Ciao. A domani, 18:30. Sì, ciao. Ciao.